in primo piano. Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Buon sabato da Giulia Crivelli. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oltre a dedicare due pagine a tutti gli spunti di dibattito e i dibattiti che sono in corso al Forum di Cernobbio, che è il primo appuntamento, diciamo, del dopo estate, il primo appuntamento economico, finanziario e politico, c'è anche una, visto che ieri si è chiusa la settimana delle borse, un approfondimento sul super euro, che benché sia così, la nostra valuta, la valuta europea, è molto forte in questo momento, non fa paura, conta di più la ripresa. L'analisi che poi trovate a pagina 3 dà conto anche però del dato, il dato più recente dell'occupazione americana, che ha rallentato la sua corsa, sono tra virgolette solo 156.000 i posti di lavoro nuovi in agosto. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, in edicola Plus 24, che è il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, visto che si è parlato moltissimo settimana scorsa di Jackson Hole, la località dove si è tenuta la riunione dei banchieri centrali mondiali, il titolo della copertina di Plus è Appesi a quei due, e quei due sono il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi e la governatrice della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Janet Yellen. Le attese e i timori dei gestori alla vigilia delle decisioni di BCE e Fed sulla stretta monetaria. Il Messaggero, ve lo cito subito perché sono due i temi importanti che riguardano Roma e che quindi il Messaggero mette in prima pagina con molto risalto. Da una parte la questione degli sgomberi, perché quello di Piazza Indipendenza ha fornito l'occasione per dare finalmente dei dati certi su quante sono le case occupate in Italia, quanti sono gli sgomberi che dovrebbero essere più o meno fatti, ma anche quali potrebbero essere le soluzioni per un'emergenza abitativa che in Italia c'è e che riguarda soprattutto gli italiani. Sgomberi, la regia passa al Viminale. La stretta delle nuove regole, cabina con Ministero, Comuni e Regioni. Interventi più rapidi. E poi c'è questa notizia dell'incontro tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e Marco Minniti, il ministro dell'Interno, che ha dato un po' una svolta. E con la pubblicazione di questa circolare del Ministero degli Interni che ha autorizzato questo sgombero di Piazza Indipendenza, da qui l'incontro chiesto da Virginia Raggi e il sindaco Raggi ha detto che per esempio per risolvere l'emergenza abitativa a Roma si potrebbero usare le caserme dismesse e poi anche le case sfitte. L'altra notizia di Roma è l'ufficialità del commissariamento, del concordato per l'ATAC, la società del trasporto pubblico. L'articolo è di Oscar Giannino, che non ha bisogno di presentazioni e che da lunedì, ritroverete. Bevo un po' perché credo questi sbalzi di temperatura, l'aria condizionata e questo coincide con un po' con la fine del mio impegno quotidiano qui alla rassegna stampa, appunto ho un pochino di mal di gola, qualche problema alla voce, perciò perdonatemi se stamattina è così. Dicevo, Oscar Giannino, che ritroverete lunedì nella primissima parte della programmazione mattutina di Radio 24, che inizia alle 6:30. E poi un'altra notizia, oltre naturalmente ai vaccini, ma come avete sentito nel GR ci sono novità su questa questione dell'autocertificazione e trovate tutto su tutti i giornali. In prima pagina sul Messaggero anche un'analisi della 104, che è la legge che permette di concedere permessi a chi deve occuparsi di parenti malati. Come ogni cosa in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno, trovato l'abuso. E da qui appunto l'analisi, abuso della 104, serve una svolta. Pensate, i permessi per accudire i malati costano 3 miliardi all'anno. La Repubblica, questo è il tema che, come ho detto anche ieri, come dico oggi, mi ha più colpita, cioè questa sentenza del TAR di Roma, del Lazio scusatemi perché i TAR sono regionali, il Tribunale Amministrativo, che è il primo grado della giustizia amministrativa, poi c'è il Consiglio di Stato al quale l'Università Statale ha già annunciato di fare ricorso, Ebbene, il TAR, come avete sentito, ha annullato il numero chiuso deciso dalla statale per le facoltà umanistiche, accogliendo, appunto ha annullato questo numero chiuso, accogliendo una richiesta del UDU. E qui, qui c'è il primo appunto che vorrei fare, perché l'UDU, che sono andata un po' a documentarmi, sta per Unione degli Universitari, raggruppa per stessa ammissione, dichiarazione sul sito ufficiale di questa organizzazione, che si definisce il Sindacato degli Studenti, raccoglie circa 10.000 studenti in Italia, quindi una parte. Allora, quando leggo sui giornali gli studenti hanno fatto ricorso oppure gli studenti esultano, no, gli studenti dell'UDU, che sono una parte, perché io credo che il diritto allo studio sia il diritto a poter studiare in aule non sovraffollate, con docenti non oberati, selezionati bene. Il numero chiuso è stato introdotto per questo, per assicurare un'istruzione migliore. Abolirlo e appunto rendere le aule sovraffollate o in mancanza di docenti, magari cancellare persino dei corsi, secondo me non è diritto allo studio, però e appunto sottolineo che l'UDU non rappresenta tutti gli studenti italiani. Dalla Repubblica una notizia che veramente mi ha molto colpita, e ce l'ha solo la Repubblica, ed è l'addio del direttore degli Uffizi, che è un tedesco, si chiama Heike Schmidt. Ha fatto molto bene agli Uffizi, ha aumentato moltissimo il numero dei visitatori a questo, che è uno dei più importanti musei italiani, insieme forse ai Musei Vaticani a Roma, a Brera, a Milano e tutti gli altri musei bellissimi che abbiamo, lo sappiamo. Ieri ha annunciato nel 2020 lascio Firenze e andrò a Vienna a dirigere un museo di Vienna. L'annuncio è arrivato a sorpresa e per il mondo culturale italiano è stata una doccia fredda. A pagina 21 della Repubblica trovate poi un commento di Tommaso Montanari che dice: io sono contrario alla legge che ha permesso di avere direttori dei musei stranieri. Heike Schmidt per l'appunto è di nazionalità tedesca, ma non è l'unico che grazie a questa legge ha ottenuto incarichi di rilievo nel nostro paese. Sono contrario a questa legge, la premessa di Tommaso Montanari, e come vedete questo porta al calciomercato dei direttori dei musei. Io non credo che sia una questione di soldi, come può essere invece per i giocatori di calcio, dove sappiamo sono in ballo cifre da centinaia di milioni di euro. Probabilmente Heike Schmidt ha trovato a Firenze, nonostante sia riuscito a superare molte difficoltà, notevoli difficoltà per attuare le sue idee, le sue riforme, le sue strategie, e qui ha scelto di andare a Vienna, perché così prevede il fatto che siamo tutti in democrazia, e quindi se gli hanno offerto un incarico migliore a Vienna o che lo attira di più, non vedo perché paragonare questo movimento dei direttori dei musei al calciomercato, ma tant'è. La vicenda appunto la Repubblica la racconta così, e ripeto è l'unico giornale però che ha questa notizia. Il Corriere della Sera affronta il tema dell'abusivismo delle case occupate, e facendo i numeri sono 49.000 in Italia e sono aumentate del 20% in 10 anni. C'è questa nuova circolare di Minniti, del ministro degli interni, cabina di regia per gli sgomberi. Quindi, nonostante le moltissime polemiche, o forse anche grazie a quelle polemiche nate dallo sgombero di Roma, si continuerà, si procederà con questi sgomberi, che comunque sono urgenti, non da oggi, non da ieri. La fotonotizia è dedicata a Jane Fonda e Robert Redford, che ieri erano a Venezia per ricevere un Leone d'Oro alla carriera e anche parlare del film di cui sono protagonisti da appunto splendidi ottantenni. La Stampa, attenzione, titola su una intervista al ministro dell'istruzione Fedeli, che non curante del fatto che forse prima di tutto adesso bisognerebbe concentrarsi sull'emergenza vaccini e sul caos che si è scatenato dopo l'approvazione di questo in luglio, dopo l'approvazione definitiva del decreto che prevede la vaccinazione obbligatoria, 10 vaccinazioni per iscrivere i figli a scuola, adesso dà questa intervista e fa questa dichiarazione quasi minacciosa: così accorcerò le medie. La ministra, inevitabile rivedere i cicli, l'Erasmus sarà esteso alle superiori, questo era già stato detto nei giorni scorsi, trovate questa intervista alle pagine 2 e 3 della Stampa. In prima pagina anche un resoconto delle ultimissime esternazioni di Massimo D'Alema, Massimo D'Alema che, come peraltro racconta Massimo Gramellini nel suo caffè sulla prima pagina del Corriere della Sera, è stato, diciamo, il mentore, o a questo punto non si sa chi è stato il mentore di chi, comunque è molto legato a Marco Minniti, Marco Minniti è stato il suo consigliere. Adesso, non so, preso forse da un moto di quasi forse di invidia per il successo, l'approvazione che stanno riscuotendo le mosse del ministro degli interni Minniti, sia sull'immigrazione che sulla, per esempio, appunto sulla lotta agli sgomberi, sulla lotta alle occupazioni abusive delle case, quindi l'impegno per gli sgomberi. D'Alema, gelo su Pisapia, quindi gelo anche su Pisapia, che avrebbe potuto essere un alleato di questa costola del PD nata per volontà di D'Alema e Bersani, che se ne sono andati in aperto contrasto con il segretario del PD Matteo Renzi. E di Minniti ha detto: ah, ma è solo un tecnico, adesso serve la politica. Marco Minniti ha fatto tutta la vita al politico. Comunque, questo è il parere di Massimo D'Alema. Vi leggo però il buongiorno di Mattia Feltri, perché la questione dell'ATAC, se andiamo a osservarla bene, lascia veramente sgomenti nei numeri. Un autista di autobus di Roma, oltre che guidare gli autobus, faceva il traslocatore. Un altro faceva il piastrellista. Un altro ancora lavorava alle pompe funebri. C'è gente che fa turni di 3 ore, ha detto andandosene Bruno Rota, penultimo direttore generale di ATAC, l'azienda dei trasporti della capitale. Ogni giorno almeno un assunto su 10 rimane a casa, per malattia o permesso. Ad agosto la percentuale sale a 1 su 5. I sindacalisti si sono presi 11.000 ore di permesso in più rispetto agli accordi. C'era chi era in permesso sindacale da un anno. Del resto in ATAC ci sono 11 sigle sindacali. Sono stati appena licenziati 40 dipendenti entrati col sistema di parentopoli, ma non vogliono rinunciare alla liquidazione. Ogni anno, fino a pochi anni fa, venivano venduti biglietti falsi per 70 milioni di euro, con la collaborazione di dirigenti ed edicolanti. Sono state acquistate porte vetro a 98 e 128 euro, quando l'offerta media delle aziende sconfitte era di 6,5 e 13,5 euro. Fra il 2013 e il 2015 sono state bucate 6.000 gomme, ma ne sono state sostituite d'urgenza 15.000. Dove sono finite le 9.000 di troppo? Boh, la metropolitana, per sciopero o guasto, è ferma in media più di un giorno alla settimana. I suoi freni a disco costano 6.700 euro, anche se il prezzo di listino è di 1.700. Un viaggiatore su 3 non paga il biglietto. Ogni giorno un autobus su 4 è fermo perché è rotto. ATAC ha un debito di 1,3 miliardi di euro. Forse fallirà, forse no. Ma una domanda non è ammessa: ma di chi è la colpa? Siamo arrivati alla prima pagina dell'Avvenire, che dedica il titolo principale al messaggio di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo nella giornata del creato, un richiamo ai potenti, con la terra ferita soffrono i poveri. Ma l'articolo che mi ha più colpita e che viene richiamato da una fotonotizia in prima pagina è la questione delle ragazze in Nigeria. Ricorderete nel 2014, quando furono rapite dai miliziani di Boko Haram, 270 ragazze di Chibok nel nord-est della Nigeria. Scattò quella campagna Bring Back Our Girls, con un hashtag, protagonista tra le promotrici di questa campagna ci fu anche Michelle Obama. Ora si scopre che le giovani liberate, perché alcune nel frattempo sono state liberate, sfuggono alle famiglie di origine e alle autorità per incamminarsi nuovamente verso la foresta di Sambisa, roccaforte dei miliziani islamici. Non conoscono altra vita e lo stigma all'interno delle loro comunità per essere state rapite e violentate è più forte della costruzione subita. Questa è la la situazione di queste ragazze. Il Fatto Quotidiano torna sulla questione che ha sollevato ieri con questa denuncia fatta, con un esposto contro il governatore di Banca Italia, Visco, che probabilmente verrà riconfermato alla guida di Banca Italia. Oggi i giornali danno conto di questa indagine, però il Fatto Quotidiano torna e rincara la dose in un certo senso e parla dei metodi opachi degli ispettori di Banca Italia. Molto interessante, cerchiamo di scherzarci perché in realtà forse è più da mani sul volante come notizia. Sapete che nel referendum per il quale abbiamo votato il 2 dicembre scorso, o il 4 dicembre, era il 2 o il 4 dicembre, per la riforma costituzionale, ci sarebbe stata anche se fosse stato approvato, anche l'abolizione del CNEL. Il CNEL non è stato abolito, e ora Maria Elena Boschi, che all'epoca era ministro proprio per le riforme costituzionali, ha nominato al CNEL chi voleva cancellarlo. Da Coldiretti, che ha aiutato il PD a raccogliere le firme per il referendum, del 4 dicembre, a Confindustria, che prevedeva sfacele in caso di sconfitta. Tutti volevano abolirlo, ora tutti conservano le poltrone. Il Giornale, violenza ai immigrati, ecco i veri numeri. Ieri ho letto i numeri delle violenze, degli stupri, solo quelli denunciati naturalmente, perché sappiamo che in realtà probabilmente quelli denunciati sono circa il 20% di quelli che avvengono, e erano di più gli italiani, ma non molti di più, cioè circa tre volte di più. Ho letto questi numeri, poi sono arrivati molti messaggi, e tra l'altro approfitto anche stamattina per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi o WhatsApp o SMS al 349-238-6666, e li ho letti due volte e anche così un po' superficialmente pensavo che appunto che così di sottolineare come comunque, benché gli italiani siano di più, siano solo tra virgolette tre volte di più degli stranieri, e ovviamente gli stranieri sono molti di meno, e quindi era una cosa che mi aveva molto colpito, e questo è quello che oggi poi sottolineano molti quotidiani a partire dal Giornale. La censura buonista nega la realtà dei fatti in proporzione, perché questo è appunto il tema: gli stranieri commettono reati sessuali quattro volte più degli italiani. E vi segnalo a pagina 3 del Giornale un'analisi di Luca Fazzo, che mette una sorta, credo, a ogni donna, ma forse anche a ogni uomo, veramente un'angoscia. Dai jeans alle mancate urla d'aiuto, se le follie dei giudici assecondano le belve. Le situazioni limite, ricorderete il 1999, quando uno stupratore venne assolto perché la vittima indossava i jeans. E la sentenza spiegava che non poteva esserci stata violenza se una donna indossava i jeans e quindi se li era tolti. Nel 2009, dopo uno stupro di gruppo alle Oglie, il terzo uomo del branco veniva assolto perché aveva solo, anche qui citazione dalla sentenza, imitato gli altri. E poi un'altra sentenza: senza grida niente reato, un'infermiera della Croce Rossa viene violentata a Torino, l'assalitore viene assolto perché al diniego non sono seguite urla. Dalla prima pagina della Verità invece vi segnalo il titolo di apertura, che riguarda ancora la questione dei clandestini e su come distinguere tra chi fugge da una situazione di guerra o di estrema indigenza e chi invece potrebbe in teoria semplicemente tra virgolette essere definito un clandestino perché non rientra in queste categorie. E poi vi segnalo un'intervista a Mara Carfagna fatta da Luca Telese. Ve la segnalo anche perché da lunedì proprio Luca Telese condurrà la rassegna stampa, ma sarà una rassegna stampa diciamo estesa, che inizierà lo spazio che avrà Luca Telese inizierà alle 6:30, andrà avanti fino alle 9:00, quindi sarà una lettura dei giornali, ma ci saranno anche interviste e approfondimenti. E oggi appunto è un'intervista con Mara Carfagna. Il virgolettato scelto per titolare l'intervista, che poi trovate a pagina 11, è: candidata io premier del centrodestra, farò quello che mi chiede la squadra. il manifesto murati dentro, e qui il riferimento è una notizia che trovate anche sugli altri giornali. A proposito di questo, un ascoltatore mi segnala che la notizia di Heike Schmidt che lascerà Firenze nel 2020 per Vienna, in realtà c'è anche sul Corriere, non l'ho vista, sicuramente non con l'enfasi, c'è, se lo dice l'ascoltatore sarà sicuramente vero, e però no, non diciamo con l'enfasi che dà questa notizia Repubblica, che come vi dicevo la mette in prima pagina e ha sia un pezzo di cronaca che un commento di Tommaso Montanari. Il manifesto murati dentro, il riferimento è all'annuncio fatto ieri da Donald Trump di accelerare sulla costruzione del muro che aveva promesso in campagna elettorale tra Stati Uniti e Messico, ha scelto le quattro aziende che lo costruiranno. Libero, il Papa e la strizza cervelli. Il riferimento è alla rivelazione che c'è stata ieri in un libro che sta per uscire, che si chiama Politique et Société, e che uscirà il 6 settembre in Francia. Il Papa Francesco ha, tra le tantissime cose che ha detto anche che quando aveva poco più di 40 anni è andato da uno psicanalista. Apriti cielo. Ci sono stati commenti di ogni genere già ieri, e oggi addirittura, come vi dico, Libero apre. L'articolo principale è di Renato Farina, che non so se l'ha fatto lui questo sommario, però non so, giudicate voi. Non aggiungo niente, ve lo leggo semplicemente. Francesco si confessa in un libro intervista. È stato in analisi da un'ebrea e si è fatto spiegare il mondo da una comunista, la donna più importante della sua vita. Ma perché si debba specificare che la psicanalista è ebrea, non so. Comunque, questo è, poi dopo trovate tutto all'interno del giornale. Sguardo veloce ad alcune pagine, prime pagine di alcuni quotidiani stranieri. La Frankfurter Allgemeine, il quotidiano tedesco che citiamo sempre anche perché è un po' insieme alla Süddeutsche Zeitung e alla Bild, che però sappiamo è un quotidiano molto più popolare, è un po' l'unico quotidiano a diffusione nazionale in Germania. La fotonotizia e relativo articolo è dedicato alle elezioni in Kenya. Questa notizia la trovate anche sui giornali italiani, ma non certo con questo spazio. Infatti sono state annullate le ultime elezioni in Kenya per una questione di irregolarità e probabilmente anche di brogli, e ora purtroppo si attendono nuovi disordini. La percentuale di scarto tra chi le ha vinte e chi le ha perse non era altissima, e ora appunto l'opposizione esulta, ma il presidente eletto Kenyatta ha già minacciato di fare tutto il possibile per far capire che questa decisione è ingiusta. Dalle pagine interne un approfondimento su scusate, Angela Merkel e Martin Schulz, i candidati alle prossime elezioni tedesche per il cancellierato, le elezioni politiche che poi decideranno anche chi sarà il prossimo cancelliere tedesco, e con ogni probabilità sarà di nuovo Angela Merkel. Ma lo spunto è che domenica ci sarà un dibattito in televisione, il primo importante dibattito tra i due, il faccia a faccia, molto atteso. Vedremo se Angela Merkel, che finora ha tenuto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, un profilo molto basso da incassatrice, alle critiche ha risposto con molta serenità, forse perché si sente forte e sicura dai tanti punti di vantaggio che le danno i sondaggi. Vedremo se questa volta alle sollecitazioni di Martin Schulz, che la critica su molte questioni, risponderà in un modo diverso. Interessante, sempre sulla Faz, un articolo che cerca, dà delle ipotesi, delle spiegazioni su perché le stesse foto, reazioni diverse. Questo è il titolo, stesse foto perché? Perché, come abbiamo detto nei giorni scorsi, si assomigliavano molto le foto scattate a Houston e in altre parti del Texas con le persone colpite, e spesso macchine sotto l'acqua, persone che riuscivano a camminare con soltanto la parte fuori dall'acqua, dalla cintola in su. Queste erano le foto di Houston, foto molto simili arrivavano da Nepal, Bangladesh e India, dove però le piogge monsoniche hanno fatto, si calcola, 1500 morti, e milioni e milioni e milioni di sfollati, ma come avrete sicuramente notato, la prima notizia, quella di Houston, ha conquistato le pagine di tutti i giornali, con gli americani è ovvio, ma anche di quelli di tutto il mondo. E invece questa analoga, almeno da quanto ci mostrano le fotografie in generale non mentono, questa analoga tragedia naturale, che però è successa dall'altra parte del mondo, è stata quasi ignorata. Vi segnalo come ultima prima pagina dei quotidiani stranieri ai quali ho dato un'occhiata, Le Figaro, che torna sulla riforma del lavoro. Abbiamo detto, ci sono delle similitudini, perché si tratta di una riforma strutturale tra quello che sta cercando di fare Macron in Francia, quello che si è cercato di fare in Italia col Jobs Act. E Le Figaro nota che in queste prime reazioni alla riforma del lavoro, che poi dovrà essere implementata, manca la voce, il parere di Marine Le Pen, che per ora la presidente del Fronte Nazionale, la grande sconfitta se vogliamo alle ultime presidenziali che hanno visto trionfare Macron, per ora non ha espresso un parere chiaro, ma secondo Le Figaro prima o poi succederà, perché questa riforma del lavoro coinvolge tantissimi lavoratori in Francia e rappresenta un cambiamento che sicuramente nel breve periodo potrebbe essere doloroso. Si tratta di una riforma che dovrebbe avere degli effetti positivi nel medio-lungo termine, come sono tutte le riforme serie e strutturali. Torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. La pagina 7 di commenti e inchieste, tutta a cura di Marco Morino, e io trovo interessantissima perché, visto che abbiamo parlato dell'ATAC, un caso negativo di come il trasporto pubblico può non funzionare. E poi c'è anche il caso positivo, ma ce ne sono anche altri, lo cito perché ci sono dei dati recenti che mostrano che è aumentato ancora il numero di utenti. Il caso positivo, dicevo, dell'ATM di Milano. Uno studio presentato tra l'altro da Ambrosetti, che sappiamo è anche l'organizzatore del forum di Cernobbio in corso in questi giorni, da questo studio emerge che con trasporti urbani migliori ci sarebbe un risparmio da 12 miliardi. Nelle aree metropolitane, da noi, si impiega il doppio del tempo, si spreca, se vogliamo, perché uno magari sui mezzi può anche leggere se non sono troppo affollati, o consultare il proprio telefono o il proprio tablet, però di fatto è tempo rubato a qualcos'altro. E quindi noi passiamo appunto il doppio del tempo per colpa delle inefficienze rispetto a Parigi, Madrid, Berlino o Londra. E poi un reportage, invidio un po' Marco per averlo fatto, sarà che sono affascinata dai treni fin da quando ero bambina, sul Diamante, il treno diagnostico che ora interessa ai giapponesi. È un treno perché è un treno diagnostico, non perché si vada per fare degli esami, ma perché è un'eccellenza ingegneristica. Questo treno, che viaggia a 300 km orari, verifica lo stato della rete, quindi mentre viaggia serve anche a far capire se la rete, le rotaie e tutte le infrastrutture sono a punto. Dalla pagina di turismo, sempre del Sole 24 Ore, questa è la 10, che continua questa serie di articoli, il turismo a raggi X. Oggi il focus è sulla Calabria, che come molte altre regioni nel 2017 ha avuto un boom e, secondo il New York Times, è addirittura la meta dell'anno. Chiude con un record di stranieri e di italiani. Il mare è più pulito, anche se ci sono alcune aree, 9 in particolare, che sono oltre i limiti di inquinamento. La pagina di Sport e Business, come ogni sabato e come ogni domenica, non poteva che essere dedicata al calciomercato, che si è chiuso. Calciomercato super da 4,3 miliardi. Alla Premier League il primato per gli acquisti, però anche in Serie A, la nostra Serie A, la Premier League è un po' l'equivalente della Serie A in Inghilterra, anche in Serie A spese record. Naturalmente un accenno anche, uno spunto preso dalla partita che ci sarà stasera, Italia-Spagna. Italia-Spagna per il mondiale più ricco, Dario Ricci, non ha bisogno di presentazioni per gli ascoltatori di Radio 24, stasera allo stadio Bernabeu di Madrid la gara di qualificazione che vale l'accesso diretto alla manifestazione. E Dario Ricci ce la racconta non tanto ipotizzando le formazioni o altri, diciamo, gossip calcistico, ma anche appunto parlando di numeri, quanto vale una partita così, e soprattutto quanto potrà valere, già da oggi si può calcolare, i mondiali di Russia 2018. Vi segnalo la pagina 11 del Messaggero per la questione della Sicilia, che non mi appassiona particolarmente, quella delle elezioni in Sicilia, perché stanno andando in scena liti interne ai partiti che sembrano avere come ultimo interlocutore, ultima priorità l'elettore. In ogni caso, il centrosinistra ancora non ha un candidato, il centrodestra ce l'ha nello Musumeci e ce l'ha naturalmente il Movimento 5 Stelle, dico naturalmente perché sono stati i primi a sceglierlo e sono stati anche ormai, hanno fatto una campagna elettorale che dura ormai da settimane. E poi vi segnalo, visto che abbiamo detto liti intestine del PD, questa notizia l'ho trovata solo sul Messaggero, da ieri in cassa integrazione 184 dipendenti del Nazareno, cioè la sede nazionale del Partito Democratico a Roma. Le lacrime e sangue erano state annunciate ed ora eccole qua. Da ieri tutti i dipendenti del Nazareno sono in cassa integrazione. La misura riguarda il 100% del personale, che è composto non solo da impiegati ma anche da giornalisti, e durerà un anno, perché il Partito Democratico ha dei problemi, come anche tanti altri partiti, di finanziare le proprie strutture. Torniamo un attimo, perché comunque adesso io dico che la questione non mi appassiona, però ovviamente è importante quella delle elezioni in Sicilia, perché come diciamo sempre sono un test elettorale importante in vista poi di quelle politiche, delle elezioni politiche nazionali che dovrebbero tenersi a primavera. E la Repubblica, pagina 9, Sicilia, sondaggio dall'allarme a sinistra. Per Ghisleri, candidati di centrodestra e Movimento 5 Stelle, Ghisleri quindi il sondaggista, doppiano sia Micari sia Crocetta, i due possibili candidati del centrosinistra. Pisapia prevarrà il vertice, ma abbiamo visto con MDP, ma abbiamo visto che il gelo di Massimo D'Alema su Pisapia, per mediare con il PD, sul tavolo anche la proposta di resuscitare le primarie per arrivare a un candidato unitario. Subito sotto un'intervista al governatore della Puglia, Michele Emiliano, magistrato in aspettativa, dal 2015 governatore della Puglia, prima è stato due volte sindaco di Bari. Anche lui spinge per le primarie, il solo modo per salvarci, torna anche sulla questione dei migranti. Ora, contemporaneamente oggi, sull'Avvenire, c'è un approfondimento da Lecce, Puglia, sulla questione del caporalato e dei braccianti agricoli e della lotta al caporalato. Io credo che dovrebbe essere di questo che Michele Emiliano si dovrebbe occupare, perché è un problema che è enorme e che esiste in un paese che vuole dirsi civilizzato come il nostro, ancora il caporalato, tanto da essere stata necessaria una legge, tanto da scoprire ogni giorno che ci sono persone sfruttate nei campi, e però lui si dedica alle sottigliezze politiche all'interno del PD. Quindi vi dicevo il reportage dalla Puglia: al posto della tendopoli container con acqua e luce, questa è l'iniziativa che però tutta affidata alla buona volontà dei volontari sostanzialmente e soprattutto alla Caritas. Il nuovo villaggio potrà ospitare fino a 300 lavoratori stagionali, che normalmente invece avete visto, ricorderete anche a volte nei telegiornali appaiono queste immagini di dove vivono i braccianti stagionali, che spesso sono tra l'altro anche immigrati clandestini. Ma è Vittorio Emiliano che, ripeto, non è arrivato ieri in Puglia, oltre a essere pugliese è stato sindaco di Bari ed è ora governatore della Puglia, ma su questo problema del caporalato io l'ho sentito esternare rarissimamente, sicuramente molto meno di quanto esterni su altre questioni interne al suo partito. Per così, scusatemi lo sfogo, ma trovo veramente che a volte in Italia succedono delle cose lontano dai riflettori, che ci si chiede quasi appunto se, ma sta succedendo oggi? Sì, sta succedendo oggi nel 2017. Quindi per una nota di leggerezza, una nota veramente in tutti i sensi, la rubrica di cosa si parla, che è la rubrica che la Repubblica ha inserito nella parte dei commenti dopo che la maca di Michele Serra è passata in prima pagina, oggi è affidata a Tonia Mastrobuoni da Berlino, una giornalista secondo me bravissima, appunto corrispondente dalla Germania della Repubblica, che racconta come nella patria di Johann Sebastian Bach, cioè la Germania, e nella capitale della techno, cioè Berlino, approda mercoledì prossimo un grande virtuoso di entrambi, Francesco Tristano. Apparentemente la musica barocca e quella elettronica sembrano pianeti lontanissimi, ma forse la loro purezza matematica, l'uso dei bassi o un certo tratto ossessivo li fanno assomigliare. E poi continua e appunto racconta di questo curioso evento musicale. Dalle pagine degli esteri del Corriere della Sera un'altra vicenda che lascia veramente sconcertati, ed è quella della strage dei profughi della minoranza Rohingya in Birmania, morti annegati per scappare dalla pulizia dei birmani. E qui perché dico lascia sconcertati? Perché il ministro degli esteri del Myanmar, dell'ex Birmania, è Aung San Suu Kyi, che è un premio Nobel per la pace. Come possa succedere una cosa del genere, perché ormai è documentata questa persecuzione della minoranza Rohingya in un paese il cui ministro degli esteri è un premio Nobel per la pace? Ripeto, io oltre che la parola sconcerto non me ne vengono in mente altre. Scontri tra l'esercito del Myanmar e una milizia insorta pro minoranza. E Aung San Suu Kyi ha avuto questo da dire: io non sono Madre Teresa e neanche la Thatcher. E allora? Vabbè. Un'ultimissima segnalazione, anche perché tanti ascoltatori mi chiedevano di seguire questa vicenda, poi non c'è stato il tempo, non ho trovato gli spunti. Gli ambientalisti proseguono nel loro allarme per posticipare l'inizio della stagione della caccia, perché a causa della siccità gli animali sono tutti gli animali che saranno purtroppo cacciati sono in maggiore difficoltà rispetto agli altri anni, e quindi proprio una campagna con l'hashtag Stop Caccia del movimento animalista. Trovate tutto a pagina 21 del Corriere. E mi scuseranno in regia Pietro Lacorte per il piccolo sforamento. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Noi ci risentiamo domani per una rassegna dei settimanali, un pochino più tardi, subito dopo il GR delle 9. Ancora buon sabato a tutti.